però sono nati e cresciuti come gruppo a New York. Cresciuti è un verbo che secondo me è importante per quanto riguarda la loro carriera, perché è stata una crescita continua a livello di popolarità, dal primo disco che si sono filati in pochissimo fino a candidature ai Grammy e cose così. La loro musica, per chi non la conoscesse, è molto interessante secondo me, perché rappresentano un punto di incontro tra quello che potrebbe essere una tradizione americana, americana anche nel senso di genere americana, che parte da un fan band, per dire, e arriva ai giorni nostri, mescolata però con una sensibilità molto europea, e per sensibilità europea intendo tanto sul versante new wave, quanto soprattutto sul versante orchestrale, alla Tindersticks, alla pop noir, per capirci. Sono stato un gruppo molto importante verso la fine dello scorso decennio, perché intorno a loro hanno fatto da collante a un movimento, diciamo, una scena in cui facevano parte anche altri artisti di cui ascolteremo cose questa sera. Fecero tratto da West Night, una compilation che raccoglieva il meglio della scena di quegli anni. Tuttora continuano a fare musica. L'ultimo disco, secondo me, rappresenta uno sviluppo importante, però anche qui non è che ci sia proprio il tempo per approfondire. Fatto sta che le coordinate, secondo me, sono queste. Il fatto che un gruppo di questo genere abbia avuto un buon successo anche al di fuori degli ambiti indie, secondo me, è molto importante. Una loro canzone era stata usata per una campagna di Obama, per dare l'idea dello spessore. Il pezzo che ho scelto, e l'ho scelto solo e soltanto perché è il mio preferito, senza che ci siano particolari discorsi da fare, come invece farò dopo, per l'altro gruppo, è tratto da un EP del 2004 che si chiama Cherry Tree, che è l'ultimo disco prima del passaggio alla Beggars Banquet, prima della crescita esponenziale a livello di visibilità. Si chiama Hold Up in Straps, e secondo me dà molto l'idea di quello che sono in scena, per cui io direi di ascoltarlo. Non c'è bisogno di aggiungere altro. Thank you. di sapere Best of the National. L'altro gruppo di cui volevo parlare adesso è un altro gruppo americano, abbastanza differente come sonorità, che sono i Deer Hunter. I Deer Hunter sono di Atlanta, Georgia, il primo disco del 2005, e hanno iniziato facendo un rock elettrico abbastanza ruvido e abbastanza, per non dire molto, psichedelico, con influenze kraut anche abbastanza decise. Poi la smetto di dire abbastanza. E poi piano piano si sono spostati in una direzione un po' diversa. Diciamo che è iniziata a emergere la loro anima più dream pop, fermo restando che non mancano i loro dischi, pezzi lunghi, dilatati, un po' sperimentali, con un uso un po' strano dell'elettronica, di registrazioni, suoni ambientali. Fatto sta che appunto loro riescono a far convivere molto bene, secondo me, la psichedelia e il dream pop. Poi appunto, a seconda del disco, sto semplificando molto, perché in realtà i loro dischi sono abbastanza differenti l'uno dall'altro e varrebbe la pena ascoltarli tutti e parlarne approfonditamente. Tant'è che dicevo prima con lui che ho fatto molta fatica a trovare un pezzo che fosse, secondo me, rappresentativo più di altri delle varie anime del gruppo. E alla fine ho scelto questo qui, tratto dal loro disco del 2010, Halcyon Digest, che è uno dei loro due dischi, secondo me, fondamentali. L'altro è quello precedente, Microcastle, che, se posso aprire una parentesi velocissima, è un disco che ha un aneddoto buffo legato a esso, cioè che doveva uscire nel 2008, mi sembra, a ottobre, è uscito leakato internet a maggio. Per cui loro dissero, ok, è leakato mesi prima, regaliamo ai fan qualcos'altro, registriamo un secondo album da legare al primo. È leakato anche quello. C'era una talpa, evidentemente. Questo, abbastanza. Questo qui invece non era leakato, non mi sembra, almeno. Halcyon Digest del 2010, il pezzo si chiama He Would Have Left, dedicato a Jay Retard, che, insomma, è un altro personaggio molto molto importante per quanto riguarda gli ultimi due decenni di musica. Anche lì se ne potrebbe parlare a lungo. E appunto, come dicevo, secondo me questo pezzo qui è molto rappresentativo delle varie anime dei Deer Hunter, del loro leader Bradford Cox e degli altri membri del gruppo, che, insomma, qui trovano una buona sintesi, cioè, relativamente sintesi, perché il pezzo è lunghino, però insomma ci siamo capiti. E basta. Grazie. Va bene. Scusate, scusate, scusate. Non vediamo se si sente. Uscivano sulla stessa. Va bene. Allora, number two. Forse c'è un bravo che ci suona. Giusto? Bravo, Carlo, bravo. Va bene, noi partiamo con l'Arcade Fire. Arcade Fire a bomba. È uscito il primo disco del 2003. Il perché li ho scelti? Perché... soprattutto quando è uscito, non è una motivazione, quando è uscito Funeral, il primo disco, credo sia stato un disco importante, nel senso che loro fanno questo indie, sono in tantissimi, sono 7-8 sul palco, tanti strumenti, la fisarmonica, violino, chitarra, eccetera, fanno un indie punk, con un'attitudine punk, strano, non sono neanche dei brillanti musicisti, e questo rende ancora più interessante, perché mettere insieme, ad esempio a Lucca fece un bellissimo concerto, mettere insieme non brillanti musicisti tutti insieme a fare un indie devi avere qualcosa. Sicuramente Funeral c'ha tantissimo, è un disco con le canzoni una più bella dell'altra. Poi hanno fatto altri due dischi sullo stesso genere e poi hanno sterzato verso un'elettronica anche questo interessante, verso gli anni 80, che riguarda molto gli anni 80. Tutti i due dischi sono molto diversi, non si guarda però Wake Up, che è dal primo disco. Sono canadesi e gira intorno, diciamo, i due leader sono marito e moglie, sono Will Butler e la moglie Regine. Quello era meglio. Sì. Invece per il secondo vi devo dire questo. Io entrai qui nel negozio di René nel 2003-2004 e erano di quelle giornate che trovi René con gli occhi persi chissà dove, non sai cosa ti aspetta. Le giornate migliori. Sì, quello, cioè, tipo che ha visto la Madonna o David Bowie in film lungo. E cioè, c'hai idea, mi fa, che fai, vai via? Ce l'hai mezz'ora? Vabbè, senti qua. E mette Anthony and the Johnson. E era uscito I'm a Bird Now, il secondo disco, e effettivamente. Ringrazio René, ringrazio lo Sky Stone di esiste, perché i negozi dischi servono per questo. Dove entri e il negoziante ti dà la dritta giusta. Anthony è un inglese che si è trasferito, questa poi dopo, che si è trasferito da ragazzetto a San Francisco, poi da San Francisco è andato a New York, ha cominciato a lavorare come una drag queen nei locali New York, poi ha incontrato un musicista, un gruppo, si chiama Current 93 e poi ha iniziato la carriera da solista. Il primo disco si chiama Anthony and the Johnson, la canzone che vediamo è Cripple and Starfish. No? And the Starfish, e è del primo album, però vi invito ad ascoltare il secondo, quello che ha portato René in estasi, chiama Burnout, e adesso anche lui ha intrapreso strade diverse, elettroniche, ha cambiato anche nome, ha cambiato adesso identità, si chiama Anoni, genere Anoni. Perfetto, direi di partire. Non c'è il video perché bisogna ascoltare, cioè il video c'è nel senso, ma non c'è, non sono immagini. Allora, nel disco ci sono anche ospiti importanti, perché cito Lou Reed, va sempre citato Lou Reed, così insieme a David Bowie abbiamo fatto, no, siamo a posto, poi Bob Dylan ci pensi dopo te, e li abbiamo fatti tutti. Non è previsto, ma c'è un film. E poi ci sono anche Rufus Wainwright e Boy George, in una bellissima Your My Sister, ma questa è Cripple and Starfish. So please hit me. Cassazione. Andiamo via tutti noi! Ma è successo così! La serata va fuori! Non ce n'è per nessuno, ragazzi! Dopo? No! Prego, ed è il mio turno. Allora, io ho scelto due cose abbastanza diverse fra loro. La prima sono gli Algers. Non vi sto a fare la storia degli Algers, ma vi dico perché li ho scelti. Li ho scelti perché secondo me fondono bene le realtà musicali che li hanno preceduti, creando un suono particolarmente innovativo. Dentro la loro musica si trova l'industrial, piuttosto che il si può trovare il soul, il blues, si trovano sfumature di punk, sono molto complessi dal punto di vista musicale. Dal punto di vista testuale invece sono molto politicizzati, sono caratterizzati da il nome stesso loro deriva dal fatto che hanno scelto Algeri come punto di riferimento della lotta al colonialismo, per le vicende storiche che vabbè non stiamo certo a ripercorrere. Quindi la loro politicizzazione si esprime in un antirazzismo, in una difesa dei diritti umani, però hanno una peculiarità che troviamo in tutti i dischi. Loro ce l'hanno con qualcuno, esprimono le loro idee, esprimono i loro concetti, ma non attaccano mai frontalmente un personaggio, una situazione o una cosa attuale. Parlano attraverso metafore, attraverso immagini di quelle che sono le loro idee. E io trovo che questa sia una cosa comunque interessante e mi piace molto come modo per trasmettere le proprie idee. E quindi ci vediamo Claudette degli Algers. canta la Ola. Per il secondo, la seconda proposta che porto io è invece Murubutu, quindi si viene in Italia. Abbiamo visto che in questi primi 20 anni i generi che si sono affermati di più, che sono diventati più popolari, sono proprio il rap e l'hip hop. In Italia in particolare li abbiamo visti arrivare in cima alle classifiche, però ci arrivano, diciamo, vari tipi di rap e hip hop. Quello che, diciamo, secondo me è più innovativo, diciamo, che racconta una storia diversa, è quello di Murubutu, perché prende delle storie e le racconta attraverso un genere musicale. Invece di raccontare storie di vita vissuta più o meno bene, insomma, come si può sentire a diversi livelli, può essere quello autoriale, diciamo, un pochino più profondo di Salmo, può essere quello più commerciale che va in cima alle classifiche per una settimana e poi sparisce. Lui invece ha preso un'altra strada, racconta delle storie, le porta nell'ambito rap e sono quelli che lui chiama rap conti, e io direi che per questo sono... Diciamo, è una storia interessante da approfondire, la sua, proprio per questo fatto. Ha fatto 5 album in questi 20 anni, i primi 2 sono dedicati ai figli, va bene, il terzo, il quarto e il quinto sono dedicati a elementi. Il primo all'acqua con gli ammutinati del bouncing, il secondo al vento con l'uomo che viaggiava nel vento, e il terzo alla notte, con tenebre e la notte. Noi vediamo uno dal secondo, perché è quello che io preferisco, quindi la scelta è stata fatta in questa maniera. E la storia, diciamo, che si chiama Mare il Mestrale e rappresenta bene questo discorso di un racconto fatto attraverso il rap. Vediamolo. Vedendo le nubi estive riflesse nella risaia, nonostante la malaria dal pensiero volava, e nonostante quella paga almeno si lavorava, le loro gambe nude la immerse nella palude, venute nella Valsesia fino dalla pianura padana, e poi cantando dei giorni trascorsi tra i bordi dei borghi, gli specchi tra i pioppi, la sera scendeva sui fossi e le messi, coi voli degli aironi riflessi negli occhi, come sembrava dissenando sorridendo. E Mara che cantava rimase in silenzio, poi si mise a guardare in basso sperando aumentasse il passo. Un mese dopo si baciavano nella basilica di San Gaudenzio. Io ti guardo dentro gli occhi e non so chi sei, e riflesso nei tuoi occhi non so chi c'è. Oh no, e dimmi non so, e poi che ho perso nel vento tutto quello che ho. Io ti guardo dentro gli occhi e non so chi sei, e riflesso nei tuoi occhi non so chi c'è. Oh no, dimmi, non so, e forse chiudo i miei occhi e ti ritrovo nel cuore. Mi ricorderò, sai, quello che mi hai giurato all'altare, per le canzoni e le promesse, una memoria eccezionale. Così lei salutò le compagne nelle campagne tra le risaie, poi partirono per andare a vivere al mare, nel mare, e giunsero in quella costa di Francia dove canta il maestrale. Linando avrebbe trovato da lavorare nel sale, in quella landa dove la brezza costante accarezza le guance, la lavanda ti nebbia e la nebbia è un oltraggio personale. Sarà il nostro mondo nuovo, e il mare era tutto una gioia, portando al suo uomo i ricordi ad asciugare in terrazza. E negli anni questi presero il volo come i gabbiani dall'acqua, perché per ogni cosa che dona la vita un'altra la immola. E un giorno Nando sparì, non torno più dai campi, perché anche nonostante i risparmi lavorava ancora con gli altri braccianti. E Mara, finché non venne buio, rimase sull'aria a aspettarli mentre la pioggia di giugno le lisciava i capelli ormai bianchi. Lei che avrebbe voluto baciarlo e abbracciarlo tra i lampi, cantargli degli anni passati in Camarga da Marsi. potuto andare, in fondo mi stavano bene. E a parte quel vento che a volte faceva impazzire i cavalli, chiese a tutti i vicini, ma nessuno seppe che dire, seppe che dire. Si scambiavano sguardi, ma non riuscivano a ridere. Gli anni passati si lanciavano per sparire dentro lei, come il suono del campanile di San Marie della Mer. E sarà questo vento forte che mi soffia via i ricordi. Io li vedo sollevarsi dal suolo, sparire fra i boschi come i polli. Diceva camminando sui bordi dei giorni trascorsi, tra i suoni dei nomi, condoni dei volti sepolti. Ora Mara non è sola, vive nella vecchia casa nel vento. A volte chiede delle risaie, guarda i campi non capendo. Quando esce per la campagna c'è un vecchio che l'accompagna. Chi passa lo chiama Nando e lui saluta col cappello. Io ti guardo dentro gli occhi, non so chi sei. Ti riflesso nei tuoi occhi, non so chi c'è. Oh no, dimmi, non so. Quel che ho perso nel vento, tutto quello che ho. Io ti guardo dentro gli occhi, non so chi sei. Ti riflesso nei tuoi occhi, non so chi c'è. Oh no, dimmi, dimmi, non so. Forse chiudo i miei occhi, ti ritrovo nel cuore. Io penso che ognuno di noi ha portato, oltre a pensare agli artisti più significativi di questi vent'anni, ha portato anche il materiale che è più abituato ad ascoltare. E quindi nella serata ha fatto capolino ora, ma sicuramente ci sarà molto altro rap, ci sarà musica elettronica, perché è probabilmente quella che ha più segnato i primi vent'anni del 2000. Però ognuno di noi ha i suoi ascolti. Allora io, Carlo giustamente mi stuzzicava con Bob Dylan, io qui ho fatto le serate, ho fatto Bob Dylan, Tom Waits, Leonard Cohen, Johnny Cash, quindi insomma più o meno ho fatto anche altre, ma insomma penso che le principali, ecco, più o meno spazio. E allora ho pensato di portare due artisti che meno male calpestano quella stessa strada, però inquadrandola, vedendola da un'angolazione più adatta a quelle che erano gli anni 2000. E quindi che certamente partono da quello che più ascolto, quello che più mi piace, cioè un'impostazione cantautorale, anche se uno dei due è in realtà formalmente una band, però insomma dandogli una verniciata e un vestito più contemporaneo. Il primo dei due è Sufjan Stevens, che ha cominciato la carriera proprio all'inizio, all'albore degli anni 2000, ma in particolare nel 2003 gli è venuta un'idea folle di pubblicare una serie di dischi, che voleva fare 50 dischi, ognuno dedicato a uno stato degli Stati Uniti. Potevano essere LP o anche EP. Si è fermato, non proprio, non ci è arrivato vicino, perché ne ha fatti due. Il primo si intitolava Michigan, che è lo stato da dove viene, lui viene da Detroit. Il secondo è quello, questo è Michigan, che c'è anche in vendita incredibilmente stasera disponibile, e il secondo è Illinois. La cosa interessante secondo me di Sufjan Stevens è che appunto il territorio è quello, parte dal folk, da ballate. Alcune canzoni sono anche ballate molto semplici, esili in un senso positivo del termine. E però, soprattutto in questi due dischi e in quello che viene dopo, ha combinato questo tipo di approccio con arrangiamenti e con una visione un po' più ariosa, diciamo, di questo genere musicale. E quindi dentro, a livello di strumenti, ci sono tanti fiati, ci sono gli archi, ci sono una serie di campane, campanacci, è una musica spesso tintinnante quella di Sufjan Stevens, e c'è questo tentativo, approccio di fare un folk in qualche maniera orchestrale. E il disco invece con cui è diventato più famoso è quello del 2005, che è Illinois, anche se lui gioca in questo caso con il titolo, con il nome dello stato, ma chiamandolo Illinois, quindi giocando con la parola rumore. Il pezzo più famoso da questo disco sarebbe Chicago, però io ne ho scelto un altro, perché è quello che forse racconta un po'. Il disco è diviso tra queste ballate un po' più semplici e quelle un pochino più elaborate, più orchestrali. Io ho scelto un pezzo che si chiama Jacksonville, che è una città dell'Illinois, che era dedicata, intitolata a un presidente degli Stati Uniti che si chiamava Jackson, e ce lo vediamo dal vivo, e anche visivamente vedete anche un po' la composizione di questa musica. È Jacksonville di Sufjan Stevens. Sì, è partito. And I think this is one of the cooler songs. This is about a small town with a big heart in Illinois called Jacksonville. Spirit is right, and the spirit doesn't shed tears. Seconda artista, come dicevo, formalmente è una band, perché è Bon Iver, che però in realtà è soprattutto il progetto di Justin Vernon. Il suo allontanamento, diciamo, il suo rimaneggiamento del folk, della musica cantata orale, sì, io tanto dicevo, è un po' più un percorso, ecco, rispetto a quello di Sofia Stina, nel senso che lui proprio si allontana. Il primo disco, che è quello lassù, che si chiama For Emma, Forever Ago, è un disco che ha avuto successo perché è un bellissimo disco, ma anche perché nasceva da una narrazione di questo Justin Vernon che si rinchiude in una casetta di legno dei genitori sotto la neve nel Wisconsin, e praticamente da solo registra un demo, lo manda a una casa discografica e alla fine viene pubblicato più o meno esattamente com'è. E dal punto di vista dello stile, anche qui siamo appunto in una lettura più moderna, più personale del songwriting americano. Sicuramente quello che caratterizza Justin Vernon è l'uso del falsetto, ma anche la voce registrata spesso su due tracce diverse, le molte tracce di chitarra. Questo per quello che riguarda il primo disco. Però io ho scelto una canzone dal secondo album, che invece è quello lì con l'acquarello, che si chiama Bon Iver, perché come se Sufjan Stevens aveva avuto questa idea folle di fare 50 dischi che descrivessero la mappa degli Stati Uniti, in questo disco in qualche modo Bon Iver disegna la sua geografia, del suo immaginario, del cuore, perché diversi titoli delle canzoni sono titoli che richiamano a luoghi che possono essere città, che possono essere stati dal nome storpiato, oppure nomi anche di posti immaginari. I testi di Bon Iver, non so se avete mai provato a leggere, ma sono incomprensibili, cioè non si curano minimamente del senso compiuto, quindi possono piacere o non piacere. L'unica cosa che è inutile fare è cercare di capire che cosa significa, perché è piuttosto impossibile. Quindi non ho fatto quello che faccio di solito, di mettere sottotitoli, che ho cominciato e poi ho detto no, basta, è caso. Quindi noi ci vediamo però un pezzo da questo disco e da un concerto che trovate su YouTube, e che secondo me è uno dei concerti fatti negli ultimi anni più belli che siano stati pubblicati di recente, che è un concerto al Pioneer Works, che è basato soprattutto sul terzo album, che è ancora un passo in là verso, diciamo, l'allontanamento del fuoco, con più elettronica, con più ritmo, eccetera. Il pezzo invece è tratto dal secondo disco e si chiama Calgary. Grazie mille. Vieni te, no, no, è bello. Ci vuole il telecomando. Intanto puoi parlare di Bon Iver. No, che fai? René, Tupa ha annunciato sì, lo so. La trasmissione qua. Non si sente più. Davvero? Questo è un problema. Ma c'è il computer? Sette anni non succede mai niente. È la crisi dei 7 anni, ce l'ha gufata Aurelio. Non mai dire che i computer vanno bene. I cavi sono fuori. Non è successo in effetti. Thank you. buonasera. Allora, io ho portato anch'io due artisti. I primi sono i Mumford & Sons, sono un gruppo inglese che si è formato nel 2007, che per una serie straordinaria di coincidenze suonano l'indie folk, che è una cosa che per gli inglesi risulta molto complicato. La cosa si spiega con la composizione della band e gli strumenti, che sono Mark Manford, ha una voce con tonalità e colori molto particolari, e suona chitarra e la batteria. Poi c'è Ben Lovett, che suona voce, tastiere, pianoforte, fisarmonica. Winston Marshall, che suona voce, chitarra, banjo e basso. Ted Duane, che suona voce, basso, contrabbasso e batteria. Questa composizione così particolare dà un suono che loro sviluppano molto bene nei primi loro due dischi, e il loro secondo disco nel 2013, che c'è lì sia in vinile che in CD. Bravo. grande Stone. Vince addirittura il Grammy Award del 2013 come disco dell'anno. Poi si prendono una pausa, cercano di ristudiare un po' la loro musica, e nel 2015 escono con un disco che si chiama Wilder Minds. Però è diventato un po' più elettronico, allora hanno una certa critica negativa, e cercano di non piace questo disco qua ai loro, perché avevano creato questo loro sound, e questo disco ha un sound completamente diverso, molto più elettrico. Adesso è uscito quest'anno, 2018, che quest'anno, Delta, che è il quarto disco, nel quale c'è la canzone che ascoltiamo stasera, è disponibile anche questo, è lì. È lì. Allora, io faccio ascoltare una canzone che a me mi ha preso al primo ascolto, mi succede raramente, cioè io ascolto tanta musica, al primo ascolto una sera tornavo di cattivo umore dall'ufficio, sento questa canzone qua, ma mi ha cambiato completamente l'umore. E anche se, e lo cito, Fabio Degesterina lo ritiene un mio ascolto pediatrico, secondo me è una canzone molto bella che vi faccio sentire volentieri. Prendi un po' di volume, che a casa lo sento sempre piano. c'è una versione su YouTube con la London Philharmonic che è fantastica, con i violini, con i violoncelli, con le viole, è veramente molto bella. Poi c'è da portare un secondo autore e io pensavo di portare Taylor Swift che ha fatto... Ma ho parlato con mia figlia che è di anni 24 e mi ha detto no, non puoi, cioè, non puoi portare Taylor Swift, dice, devi portare, dico, io ho solamente 10 minuti, non c'ho tempo per leggere il nome, Stephanie Joanne Angelina Germanotta, che sarebbe Lady Gaga, è una artista completa, molto, molto mainstream, e che ha esordito da piccola come ragazza molto talentuosa. Metti il video intanto, perché il video è la canzone comincia a 2:25, grazie. Ha esordito Bully Pupe per parlare di musical alle elementari, è sempre stata una molto precoce, a 13 anni ha scritto il suo primo brano. La quindi larga, la elementari. No, ma poi c'ha pochi anni, non è mica la mia età. Ha frequentato la scuola di Strasberg, una delle scuole, degli istituti di Strasberg, dell'Actor Studio, e ha avuto delle sponsorizzazioni per studiare musica. C'è una che si è molto preparata, veniva da una famiglia molto, molto su di New York, della Upper West Side, e però nonostante tutto non riesce ad aver successo, allora per un certo periodo si dedica al burlesque. Lei proprio va a fare la ballerina di burlesque nei locali di New York. E questa cosa qua le dà uno stile che vedremo in questo video. Il successo gli arriva nel 2007 con un concerto a Lollapalooza, e mi ricollego a Glenn Hansard, di cui abbiamo dei bellissimi video a Lollapalooza a Chicago, al festival. E deve arrivare la canzone. No? Praticamente è un artista che si basa sull'impegno, sulla contemporaneità, è una fashion icon. Ed è una icona per tutto il mondo LGBT, e lei ha come nome d'artista non arriva la canzone Mother Monster, vuol dire il mostro di mamma, cioè perché sua mamma le diceva sempre questo nomignolo qua. Non c'è niente di sbagliato nell'amore nell'amare chi sei, quindi mantieni alta la testa, ragazza, e andrai lontano. Sono bella a modo mio, sono nata così, sono sulla strada giusta. È un po' un inno dei nostri ragazzi giovani di oggi. Arriva adesso. I was born this way. Eh? I was born this way. Dura 29 minuti. And as she herself split into two, rotating in agony between two ultimate forces, tutti in piedi adesso, the pendulum of choice began its dance. It seems easy to imagine. To gravitate instantly and unwaveringly towards good. But she wondered, ha vinto anche l'Oscar con The Star is Born, che c'è anche qua, con la canzone Shallow, il miglior canzone originale. Film bello da vedere. C'è anche il DVD disponibile. Sì. Non lo so. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M- Give yourself prudence and love your friends. Subway can rejoice the truth. don't be a drag, just be queen. Whether you're broke or evergreen, your black, white face, your life is set. Your Lebanese, your Orient. Whether like disabilities left you outcast for leader teens, rejoice and love yourself today. Cause baby, you were born this way. Questa bella botta di adrenalina. Introspezione. Volevo cominciare consigliando, un po' per riassumere anche un po' quello che abbiamo visto e quello che vedremo, una compilation edita, pubblicata dalla 4AD nel 2009, si chiama Dark Was the Night, dove dentro ci sono vari artisti come Sufjan Stevens, Bon Iver, tutto quel gruppo di indie folk che ha caratterizzato i primi anni 2000, e tra questi c'è anche Annie Clark che fa un duetto con Bon Iver. Annie Clark, in arte St. Vincent, è una musicista dell'Oklahoma che proprio parte come musicista di Sufjan Stevens, di Midley, che è un altro gruppo folk del 2000, e pian piano inizia a convincerla a pubblicare i suoi dischi, che sono sofisticati ma estremamente fruibili pop, anche comunque rimanendo comunque nell'ambiente indie, e sono estremamente interessanti perché riescono a mescolare musica classica, folk, rock, senza che all'orecchio inizialmente a sentire, cioè non si nota, eppure estremamente, quindi c'è forte la personalità di una musicista che era estremamente timida all'inizio a pubblicare dei dischi, eccetera eccetera. Questa cosa la nota David Byrne, che la convince a andare a fare sia un disco con lui sia andare in tour insieme a lui, e questo, che dovrebbe essere una consacrazione anche per il suo genere, insomma, per la sua personalità, insomma, per la sua musica, la porta a cambiare completamente rotta, a buttarsi sull'elettronica e su un sound più sintetico. Quindi non so cosa gli ha suggerito David Byrne, l'ha rovinata, sembra che l'abbia distrutta, poverina. E invece lo stesso incanto che aveva i suoi dischi folk riesce a portarli anche con questo sound sintetico. E insomma, per questi 20 anni è stato un cimitero di artisti che si sono buttati sull'elettronica e hanno fallito clamorosamente. John Grant, anche Bon Iver, forse, no, scherzo. No. Gli Arcade Fire, secondo me, sono lei invece, la mia convinzione, dove si litiga, dai. La mia convinzione è che lei ha mantenuto... La parte comedica. Sì, dai. Lei ha mantenuto uno stile sensazionale, cioè non sensazionale, ma comunque non ha steccato e soprattutto è coerente con gli anni, con il sound, con la musica più modaiola, senza essere venduta o rimanere comunque indie. Tant'è che il suo ultimo disco, Mass Seduction, filtra addirittura con il pop, con una produzione, sceglierebbe un produttore di Taylor Swift addirittura, eppure è andato, fidatevi, ascoltatelo, ha un certo valore fantastico. E vi ascoltiamo al vivo con Rattlesnake da... Dimmi. Ho solo una nota, dovresti far notare un pezzo che ha fatto proprio il piano e poi dopo che l'ha fatta in versione elettronica. Si capirebbe tantissimo. Non ci vediamo. Lo so, è bellissimo. Rattlesnake dal suo disco, del quarto disco che non voglio. Si chiama Fede Aspunti. Io ho un'immagine che mi ha, cioè, un momento che mi ha segnato profondamente è stato il giorno in cui gli U2, il palco della Apple, hanno venduto il loro disco gratis sulle piattaforme, sulle loro piattaforme, pensando di essere comunque al passo con i tempi, al passo con la modernità, e cosa che invece li ha portati a distruggere quasi la loro carriera, perché soprattutto quelli della mia generazione hanno trovato come intrusivo il loro forzare un utente Apple a avere il proprio disco sulla loro libreria. Questo li ha distrutti. Io non ho più visto un'attesa per un loro disco da lì in poi, l'ho visto proprio. È stato preso in giro da tante persone. E è stata la fine del rock, secondo me. È stata una sorta di fine del rock. E gran parte del rock in questi 20 anni non c'è. Ha perso una certa spinta, soprattutto a raccontare i tempi. Invece lei è la mia rockstar preferita. Ho insegnato qualche suoi momenti particolari che l'hanno definita per me una rockstar. Allora, il suo disco, il suo pezzo di successo si chiama Paper Planes e ha un ritornello che recita: tutto quello che voglio è spararti e prenditi i soldi, per scimmiottare un po' gli immigrati che vengono a rubarci, a farci ucciderci, eccetera, eccetera, perché lei, lo vediamo dopo, è un'immigrata. Nel luglio del 2010 si divise a David Letterman con Martin Redd dei Suicide, scatenando una performance ai limiti della follia. Bello. Nel 2012 si esibisce duettando con Madonna al Super Bowl, mostrando in un momento il dito medio, e mostrare il dito medio al Super Bowl è proprio gruttare in chiesa. Una sorta di... ma soprattutto, aspetta, lei si è giustificata dicendo che era un gesto religioso. Quindi, ma cosa, buttare in chiesa? No, il dito medio, ovviamente, no, perché ovviamente è stato. Ne potrei dire altre, lei si chiama Emma A. Si fa anche chiamare Mia, oppure altre. Il filizio in Maya, ce n'è tante, ed è una rapper nata in Sri Lanka e poi è andata a vivere in Inghilterra, a Londra, con la sua famiglia all'età di 10 anni, senza però il padre, perché il padre è rimasto nello Sri Lanka perché era il capo di una fazione rappresentata in Tamil, che era popolazione minoritaria dello Sri Lanka, che nel 2010 è stata, durante gli anni e i decenni, ma soprattutto nel 2010 è stata quasi rasa al suolo dal governo, in cui lei ha invitato, ha denunciato questa cosa, e ha denunciato soprattutto per non andare in vacanza allo Sri Lanka, invitando i propri ascoltatori, i propri fans ad andarci per questo motivo. Lei è stata per me una cartina di tornasole di questi anni, perché è il pop, l'R&B o l'hip hop si è presa quello che forse una volta era il rock, cioè la denuncia sociale, i diritti civili, tante cose che una volta il rock si portava avanti, specie gli U2, e invece adesso negli ultimi 20 anni sono loro, i rappers o questi artisti, anche pop, soprattutto il pop è diventato molto più coscienzioso. Poi c'è chi fa le figurine e chi no. Lei no. Lei si è ammesso a ripentaglio anche la sua carriera per denunciare tante cose che potremmo parlare per ora, ma non abbiamo tempo. Questo è il video di Bad Girls, che è stato girato in Arabia Saudita il giorno dopo che il governo ha deciso di far guidare le donne. E sono le donne che guidano la macchina e gli uomini stanno a guardare. Prego. Let's go. a tutti. Allora, io non ci avevamo messi d'accordo io e Matteo, ma in realtà è un proseguimento di discorso, perché io non sono qua a presentare due dischi, che poi sarebbero tre, che poi sarebbero quattro, ma in realtà volevo rimarcare il fatto di come in questi 20 anni la black music, macro genere in cui mettiamo dentro l'hip hop, l'R&B, new soul, eccetera, è stato praticamente il macro genere che è stato più rilevante in questi 20 anni. Da un punto di vista sociale, perché è quello che ha in qualche modo intercettato quelli che sono i cambiamenti, i mutamenti della società, anche da un certo punto di vista il malessere sociale, e diciamo è stato anche veicolo di cambiamento e di lotte, ma anche dal punto di vista musicale, perché mentre la musica bianca, sto parlando sempre a livello mainstream, quindi di pop di successo, e il rock o l'indie è rimasta sempre un po' chiusa in se stessa, è rimasta sempre un po' a ripetere sempre un po' lo stesso cliché, insomma gli anni d'oro del rock, stiamo parlando del fine anni 60 fino ai primi anni 80, la musica nera invece si è aperta, si è integrata, ha mescolato le carte e ha creato quelli che sono stati i veri e propri generi di questi 20 anni. La cosa interessante è che la musica nera fino a, insomma, per tutta la seconda metà del Novecento era fondamentalmente musica di intrattenimento. Mentre in questi ultimi 20 anni la musica nera è diventata anche musica di ricerca, cosa che non era mai stata fatta. Sono tanti i personaggi importanti, uno di questi è Kanye West, su cui ho fatto anche una giornata, una serata qui a Radio Kanye, e l'ho fatto prima che ci fosse la conversione, quindi in qualche modo ho pronosticato il passaggio. Kanye West è sicuramente lui, il primo disco del 2003, ha fatto uno dei dischi uno più importante dell'altro. Se avete letto appunto le classifiche di cui faceva prima riferimento René, quindi Rolling Stone, Pitchfork, Billboard, eccetera, il primo disco degli ultimi 10 anni, ma possiamo dire tranquillamente negli ultimi 20 anni, è My Beautiful Dark Twisted Fantasy, che è un disco pazzesco, cioè si può paragonare a... per la grandezza si può paragonare a Pet Sounds dei Beach Boys, al White Album dei Beatles, perché è un disco che mette insieme tutto, mette insieme i Black Sabbath insieme a King Crimson, mette insieme strofe di Gil Scott Heron insieme a Nicki Minaj, fa cantare Nicki Minaj insieme a Justin Vernon The Money Bear, che nessuno conosceva, era ancora il primo disco, quindi insomma era una cosa che non conosceva nessuno. Chiama Elton John e gli fa fare un coretto, cioè, un disco che è costato 3 milioni di dollari e ha completamente cambiato anche le tematiche e il suono dell'hip hop, che fino ad allora era il suono del ghetto, eccetera eccetera. Il pezzo che invece noi andiamo a sentire non è da Twisted Dark, non so mai dire, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, ma è di Watch the Throne, che è il disco successivo del 2011 che Kanye West incide insieme a Jay-Z. Il titolo è abbastanza emblematico, no? Watch the Throne, per dire noi siamo lassù e voi siete e tutto il resto siete solo dei nostri sudditi. Il pezzo che ascoltiamo si chiama No Church, No Church in the Wild. Lo ascoltiamo perché in realtà il pezzo è cantato e scritto da un altro personaggio di cui vorrei un attimo accennare, che è Frank Ocean. Ascoltiamolo e vediamolo, perché è un video molto bello. Sì. Stesso regista del video di prima. Io preferisco la sua. Non è in gamba. Ah. nobody without telling me. Sunglasses in Advil, last night was mad real. Sun coming up 5 a.m. I wonder if they got cash still. Think about the girl in all leopard, who was rubbing the wood like Kiki Shepherd. Two tattoos, one red, no apologies. The other said love is cursed by monogamy. That's something that the pastor don't preach. That's something that a teacher can't teach. When we die, the money we can't keep. But we probably spend it all, cause the pain ain't cheap. Preach. Human beings in a mind. What's a mind to a king? What's a king to a god? What's a god to a non-believer? Don't believe anything. Make it out alive. I'm out of Tra l'altro questo disco, questo video per almeno 7-8 anni non si è visto né su YouTube né su Vimeo, è ritornato da 4-5 anni perché era stato censurato. Allora, appunto il pezzo è scritto da Frank Ocean, che all'epoca, nel 2011, non aveva ancora inciso nessun disco, ma i dischi di Frank Ocean sono fondamentali, secondo me, soprattutto il secondo, che si chiama Blonde, che è uscito 5 anni fa, è un disco che in qualche modo ha... diciamo destrutturato la canzone pop, l'ha resa liquida. I primi ascolti fanno un po' pensare, nel senso uno rimane sempre un po' diciamo stranito perché sembrano pezzi abbozzati, invece poi se noi ascoltiamo ora non lo so, le canzoni di Beyoncé o della sorella Solange o di insomma di tutta una serie di artisti neri di New Soul, di R&B, capiamo che quel tipo di suono, quindi un po' liquido, quello dove non c'è più la forma canzone classica, strofa, ritornello, special, eccetera, è diventato il nuovo soul e la nuova pop song. Però l'altro diciamo, grande disco, e questo era Blonde appunto di Frank Ocean, invece l'altro cantante di cui volevo parlare, e soprattutto l'altro disco, che tra l'altro si vede anche qua, mi sembra, eccolo lì, sì. To Pimp a Butterfly di Kendrick Lamar. Allora, Kendrick Lamar è un personaggio importantissimo per l'hip hop, per la musica rap, ma per la musica mainstream in generale, perché grazie ai suoi testi è stato il primo artista non di musica colto, di musica jazz, che ha vinto il premio Pulitzer per la musica, che generalmente veniva data a artisti di musica classica, musica jazz e musica colta. Questo è il secondo disco suo, il secondo disco ufficiale, perché poi ha fatto anche una serie di mixtape, To Pimp a Butterfly, appunto. È un disco importantissimo, sia dal punto di vista testuale che dal punto di vista musicale. Testuale perché è la storia di, insomma, sono una serie di canzoni che raccontano della sua esperienza, cioè quindi di un rapper che è già un rapper di successo, e che in qualche modo impara a combattere le tentazioni che gli vengono date dalla fama e dal successo, vincendo i sensi di colpa di essere andato via da Compton, dal suo quartiere, diciamo malfamato di Los Angeles, quindi essere sfuggito dallo spaccio, dalla droga, da tutta una serie di cose, e sfruttando la propria influenza per portare un messaggio di consapevolezza e di unità. Questo è un disco molto importante da un punto di vista dei temi trattati. E poi è un disco molto importante anche dal punto di vista musicale, perché qui l'hip hop si sposa con il jazz più sofisticato, quasi quello di Ornette Coleman. Prende i migliori musicisti jazz della nuova generazione, quindi Robert Glasper, Kamasi Washington, Terence Martin, Thundercat, e fa qualcosa di veramente unico. Io ho preso un pezzo forse non tra i più popolari, ma che rende molto l'idea, si chiama For Free, e quasi più che un rap sembra quasi una spoken word. Dura molto poco, ma è intensissimo. Forte, forte. Bianche molto bianche peraltro. No, è interessante secondo me come si sta sviluppando la serata, cercando di vedere quanti, no, quanti punti di vista ci sono per cercare di capire in qualche modo la contemporaneità, no? Cioè, cerchiamo di aiutarci con questi artisti per capire il mondo che stiamo vivendo attraverso insomma una serie di sfumature, di gusti diversi ovviamente. Ognuno sta portando, almeno mi sembra, una serata che sta piacendo molto. È un po' confusionaria perché chi si alza, chi si sposta, ma insomma vabbè. E poi c'è stato il blackout. Allora, io ho portato, se possiamo vedere la foto, Anna Calvi come prima proposta. Anna Calvi è una ragazza, una donna, in realtà è dell'80 mi sembra, che ha pubblicato 3 album, è di origine italiana. Anna Calvi, insomma, il nome e il cognome tradiscono la sua origine, il babbo è italiano, ma è profondamente inglese, insomma, è nata e vissuta da sempre in Inghilterra. Ha studiato musica, si è diplomata con grandi voti, e questo è un elemento ovviamente che, no, che dà tono anche al personaggio. Ha pubblicato il primo album nel 2011, che è questo che vediamo in copertina, che è un album bellissimo, veramente molto bello. È sul filone che ovviamente per il mio gusto è il filone che seguo con grande passione, che va, che ne so, da Patti Smith a PJ Harvey e arriva insomma fino ad Anna Calvi. Ci sono stati nel corso degli anni 3 musicisti che io amo e stimo moltissimo, che l'hanno in qualche modo sponsorizzata, diciamo così, o comunque l'hanno, gli hanno dato fiducia, insomma l'hanno aiutata in qualche modo. E sono Brian Eno, Nick Cave, e sapete l'amore che porto per Nick Cave, che l'ha voluta in tour nel 2011, mi sembra, e ultimamente anche David Byrne, che si citava prima in occasione di St. Vincent. Il genere è un genere che si muove appunto in ambito rock. Il disco che più mi avvicina a questo primo di Anna Calvi è Grace di Jeff Buckley, in qualche modo. C'è quell'intensità, c'è quella profondità, c'è quello spessore e quella intensità che io ho trovato in Jeff e anche nel Babbo. Lei usa la voce in maniera molto particolare e usa la chitarra in maniera molto particolare. È una grande chitarrista e usa la chitarra in maniera fallica, nel senso più maschia del termine, perché il tema che porta avanti Anna Calvi è un po' il tema che si è già citato anche prima, è quello, uno dei grandi temi di questo momento attuale, cioè del genere, no? Cioè questa idea che il genere, anche sessuale, di un essere umano non è più dato, o comunque viene messo in discussione se è dato dalla natura o se è una scelta personale. Io credo che questo sia uno dei temi chiave per comprendere la contemporaneità, uno dei temi chiave per capire anche ciò che si muoverà nel futuro, non solo in ambito culturale, non solo in ambito storico, ma io credo anche profondamente in ambito spirituale. E Anna Calvi si fa, non è la sola ovviamente, portatrice di questo nuovo mondo che si affaccia all'umanità. Il brano è l'ultimo di questo primo disco, lei ha fatto 3 album, il primo disco, questo è probabilmente il più bello, il secondo One Breath, il terzo è Hunter, la cacciatrice. Questo lascialo pure, che è un pezzo molto lungo, lascialo pure, ma pure. È probabilmente, è quasi sicuramente il disco più bello. Gli ultimi due, l'ultimo album è un po' lezioso per i miei gusti, però è sempre un grandissimo disco. Questo è tratto dal tour del primo album, con la prima formazione, con lei alla chitarra e con i suoi due sodali alla batteria e all'armonium e alle percussioni. È il disco, è la canzone che chiude il disco, è strepitoso. Che devo dire? Volume. Thank you. insomma, questo io spero che la serata di questa sera ci inviti noi tutti a spingere non in quest'anno ma nel prossimo anno a cercare nomi nuovi, no? Siamo sempre un po' proiettati un po' verso il passato. Donovan, Syd Barrett, Bob Dylan, va bene, però no, voglio dire, anche negli ultimi anni ci sono cose in cui meriterebbero un approfondimento, e secondo me Anna Cavi merita un approfondimento. C'è questo gioco, no, tra quel furore elettrico quasi hendrixiano della sua chitarra, questa sua figura così splendidamente erotica e sensuale, no, in un corpo femminile, e un animo maschio così uomo, no? la prima canzone dell'ultimo album si intitola As a Man, e quindi insomma mi piacerebbe approfondire, ma non abbiamo modo stasera. Il secondo invece, la seconda proposta che faccio è una proposta che probabilmente spiazzerà un poco, perché sono i più brutti ceffi che si possono incontrare sul panorama musicale inglese di questi ultimi 10 anni. Si chiamano Slipper Mods, vediamo se si trovano da qualche parte. Eccoli qua. Slipper Mods sono un duo di ragazzini di primo pelo, in realtà hanno 40 anni, quando esce il primo disco hanno più o meno 40 anni, adesso è uscito nel 2007, hanno più o meno 50 anni o poco di più. Sono due disgraziati, fondamentalmente sono due disgraziati che hanno vissuto la loro vita nei pub londinesi, loro sono di Nottingham in realtà, nei pub inglesi, a bere birra, a fare rissa, a vedere le partite, a giocare a freccette, a ubriacarsi e a fottersi, a prendere i soldi del sussidio e a fare qualche lavoretto al nero. Come ha detto lui? Sì, e più o meno il mondo è quello. Sì. E a un certo punto, probabilmente se non avessero incontrato la musica, sarebbero probabilmente adesso sotto un paio di metri di terra, ma insomma non so come sarebbe andata a finire. Però al di là di questa figura insomma abbastanza truce con cui si presentano, poi vedrete il video, sono le invettive di Williams, sono veramente qualcosa di molto potente. Hanno anche una certa ironia, cioè si portano per il culo alla fine, e portano per il culo, e questo in qualche modo ce le rende ancora più simpatici. La musica, il progetto musicale che propongono è secondo me estremamente interessante e, come dicevo prima, estremamente contemporaneo. Dal punto di vista musicale, Learn, che è questo che vedrete, potete vedere 100 video su YouTube e in 100 video lui è così, con la birra in mano, la mano in tasca, la testa che ciondola, e l'unica azione che fa è premere play sul computer. Però nuovo millennio. È il nuovo, esatto. Questo è quanto secondo me più rappresentativo del nuovo millennio, cioè di come la musica del nuovo millennio abbia in qualche modo cambiato anche le regole della musica, no? Si diceva prima della black music, ma anche in ambito della white music c'è qualcosa di importante. Le basi che crea Learn sono basi molto minimali, loop elettronici che si rifanno molto all'industrial, molto alla techno minimale, piuttosto che non anche echi di drum and bass, di grime o di R&B. L'ultimo disco, che è quello un pochino più, diciamo, commerciale, commestibile, tra virgolette, è molto molto bello. Eccolo lì. Ed è questo qua, Slipper Mods Eaton Alive. Il disco precedente era stato pubblicato dalla Road Trade, che è un'etichetta di un negozio storico inglese alternativo, ma per loro era anche troppo mainstream. Sono usciti dalla Road Trade e hanno fondato la loro etichetta per questo nuovo disco. Mentre da un punto di vista dei testi, Williamson canta in realtà rutta in qualche modo, vomita milioni di parole, no? Vomita una rabbia, un dissenso e anche una certa ironia contro, diciamo, un mondo, diciamo, che ci sta un po' fagocitando tutti, ci sta un po' ingollando tutti e probabilmente ci sputerà con un rutto prima o poi. Sono quanto di più punk è uscito in Inghilterra negli ultimi 20 anni. Sono l'essenza del punk anche se non fanno punk. E questi sono gli Sliver Mods. Il pezzo è dedicato a... come si chiama? A un... lui cerca lavoro. Sì, no, ma com'è il nome? Sì, disoccupati che vanno alla ricerca del lavoro. Ah, alza il volume. Eccolo, volume a tutta birra. Sleeper Moss, the best in the world. Anni è la prima volta davanti a un pubblico, quindi vi prego di perdonare un po' la mia emozione e vi prego di perdonare anche il fatto che, tradendo anche un po' lo spirito della serata a questo punto, io vi riporterò invece indietro nel passato, idealmente a livello iconografico, a livello musicale. Che io da ragazzino fui stregato dal fantasma di Nick Drake e non sei uscito più. E non ne sono più uscito, ho iniziato a vederlo ovunque. A uscire? No. E a cercarlo ovunque. L'ho ritrovato in un artista, è il primo artista che porto stasera, Riley Walker, che in realtà è un artista americano, lui è nato a Rockford nell'Illinois nell'88, quindi Illinois, Chicago, post-rock, che è il proscenio del nuovo millennio, ma lui se ne sbatte i coglioni e in realtà si rivolge al passato. E, tra l'altro, ha in comune con il Trek anche dei tratti di insanità mentale, perché poi nel marzo del 2019 ha abbandonato le scene, ha abbandonato almeno momentaneamente, ha abbandonato il tour per curarsi a livello mentale, pensate un po' che... Il suo primo album, da cui è tratta la canzone che faremo vedere, non è questo però. Ma ci abbiamo questa foto qui. È perché il primo è già sparito dalla circolazione. All Kinds of You, la canzone West Wind. Allora, in realtà dopo ha avuto uno sviluppo musicale... Allora, il primo album è quello più ancorato alla forma canzone. Le radici sono tutte nel passato. Sia la tradizione dei finger picking americani, alla John Fay, alla Robbie Basso, che alla tradizione anglosassone, i Bertie Ansch, e appunto Nick Drake, eccetera. Il brano si chiama West Wind, dicevo... Lo metto? Aspetta un attimo, sì, poi la faccio breve. In realtà, dicevo, poi ha avuto uno sviluppo, una parabola musicale che, diciamo, ricorda più quella di Tim Buckley che non quella di Drake. I dischi successivi sono molto più sperimentali, la forma canzone quasi si dissolve, diventano brani quasi delle jam session, molto, molto libere. Ma noi invece ascoltiamo un brano dal primo album che è quello molto più invece legato alla diciamo alla tradizione. Lo mettiamo? È West Wind, si intitola. I don't know what it is, but I'm here to learn. il secondo brano che vi propongo è di un artista che negli ultimi anni è diventato famosissimo. Max Reed è un artista, diciamo, cosiddetto neoclassico, o come si definisce lui, post-classico. Sembra anche una scelta un po' presuntuosetta, cioè, ora incide per la Deutsche Grammophon. In realtà io sono molto legato a Max Reed per ragioni soprattutto cinematografiche, che è stato spesso usato per colonne sonore. Anche lui ha iniziato a scrivere colonne sonore, un artista nato in Germania ma che presto si è trasferito in Inghilterra, Edimburgo, ha studiato a Firenze all'Accademia Berio e si è praticamente avvicinato, diciamo, alla musica classica e al minimalismo. Questa è l'unica cosa divertente, grazie al venditore di latte, cioè a quello che gli portava il latte. Non si sa come mai, insomma, gli parlava di musica e la sua musica, allora, è del 66, quindi in realtà è tanti anni che suona, ma il suo primo disco solista è del 2002, quindi credo che possa rientrare, no? L'epoca è perfetta. Il secondo è del 2004, il disco da cui è tratta la canzone, la musica che sì, The Blue Notebooks, che andremo ad ascoltare, che è un The Nature of the Light, un brano che non so se conoscerete, immagino che comunque appena lo sentirete vi farà venire in mente forse qualche film che avete visto. Ma finisco dopo di parlarne, va bene? Intanto ce lo sentiamo, dura tanto, in bocca al lupo, speriamo che nessuno crolli, ci vediamo tra 7 minuti. Lo sentiamo un po', perché tanto è tutto uguale. Va bene, perfetto. Non è questo però. Come non è questo? No. Forse è un'altra versione, fammi vedere. Attenzione. Perché ne sono attaccato. Era questo. Sì, va bene. Va bene anche questo, va bene anche questo. Thank you. Nyman. Michael Nyman, il minimalismo sacro di Arvo Pärt, sì, lui sì, è un grande stimatore. Il disco The Blue Notebooks da cui è tratto fu inciso per la Fat Cat Records con un budget ridottissimo e fu realizzato in soli 3 giorni. È stato ristampato dalla Deutsche Grammophon, forse l'unico caso nella storia della musica in cui un disco pubblicato da un'etichetta indipendente è stato poi ristampato da un'etichetta classica, prestigiosa, tra virgolette. Una nota sul minimalismo, che è una musica che appartiene ovviamente al passato, a un passato remoto, ma come dice Richter, in realtà proprio grazie alla sua circolarità è come se appartenesse a una sorta di eterno presente, no? Come se incarnasse sempre lo spirito del tempo presente. È stata usata, ritornando alla mia passione cinematografica, per il film Arrival, che forse qualcuno di voi ha visto, di Denis Villeneuve, no? Qui ci sono quegli alieni che comunicano con gli umani attraverso quei semagrammi. Semagrammi sono circolari, come la musica minimalista. Arrival, sì, è come all'inizio e alla fine del film, tra l'altro. È come la musica minimalista, sono un segno che incarna allo stesso tempo sia il tempo passato che il tempo presente che il tempo futuro. E quindi ci sta benissimo, insomma. Allora, io sono l'ultimo, è la prima volta qui allo Skystone, e quando René mi ha proposto la serata ho cominciato a fare qualche nome, gli ho chiesto prima se potevo portare Bon Iver, mi ha detto no, poi gli ho detto Sujan Stevens, lui mi ha detto no, poi ho detto Sleaford Mods, lui ha detto no, allora ho detto John Grant, lui mi ha detto no, non lo puoi portare perché ha iniziato prima del 2000, io ho detto non so, a questo punto non so cosa fai, mi vendico. Allora io ho scelto come primo video un gruppo inglese, loro sono di base a Londra, sono 4 musicisti, tutti tastieristi, polistrumentisti, sono 2 inglesi, diciamo un gruppo multietnico, hanno un tastierista che si chiama Ruben Wu, che è di origine credo cinese, l'altra tastierista è la Mira Royo, che è di origine bulgara. All'inizio nel primo LP, che si chiama 604, hanno messo alcuni pezzi di parlato in lingua bulgara. Io sono da sempre un appassionato della musica synth pop, sono cresciuto negli anni 80, quindi sono cresciuto a Soft Cell, i primi Depeche Mode, per cui quando si tratta di un sintetizzatore, c'è un sintetizzatore, per me il gruppo ha sempre comunque un orecchio di riguardo, vado a sentire, vabbè. Loro poi tra l'altro si chiamano Lady Tron, che è un omaggio ovvio alla canzone dei Roxy Music, tratta dal loro primo disco, quindi comunque era un gruppo che, pur non avendo ascoltato assolutamente, ne avevo solo sentito parlare, appena uscito il disco l'ho comprato e da allora sono diventato un loro fan. Loro si dichiarano elettropop, non sono secondo me elettropop, c'è un po' di tutto, c'è molto anche shoegaze, questa è la copertina del loro ultimo LP, che tra l'altro porta il loro nome perché si erano presi 6 anni di libertà, perché ognuno poi ha avuto diversi progetti solisti, una è una ricercatrice genetica, la Mira Arroyo all'Università di Oxford, quindi ognuno insomma ha fatto un po' quello che voleva della propria vita, poi si sono riuniti. Il pezzo si chiama The Highland, è uno dei primi singoli tratti dall'ultimo LP che si chiama appunto Lady Tron. Se parte. Anni? Nel 2019. Ah, proprio ora. 2018-2019. Thank you. Invece poi come secondo video, non lo so, ho scelto un artista che mi ha consigliato un mio amico e dopo avermelo consigliato mi ha regalato l'LP, cosa che della, insomma, che ho gradito molto. Lui si chiama Orville Peck, che ovviamente è un nome d'arte, e si presenta così ed è un cantante che fa musica country. Niente di più, niente di meno, ci sono degli echi di Roy Orbison. Una tipica musica anni 50, per quanto io possa intendermi di quel tipo di musica lì. Mi ha colpito molto perché è un artista che probabilmente in questo periodo, proprio in questo periodo, in un'America fascista governata da Trump, ci sta bene, nel senso lui è dichiaratamente omosessuale, è il primo cantante omosessuale country, ha avuto già un sacco di copertine su Playboy, su molte riviste di moda, appare sempre con questa maschera, credo che sia il batterista di un gruppo punk americano, si riconosce da tatuaggi, perché lui è pieno di tatuaggi, quindi quando è a torso nudo si vede che, dichiaratamente, e ritengo che sia una sorta di messaggio proprio a quello che sta succedendo un po' in tutto il mondo, nel senso con questa crescente omofobia, la paura del diverso, un artista che forse potrebbe dare qualcosa di nuovo. Ha fatto solo un LP, è uscito credo nel 2018, si chiama Pony, e questo è il video che si chiama, non me lo ricordo nemmeno, Dead of Night, che è il primo video dall'LP. Another dreamless night. You're right by my side. You wake me up. You say it's time to ride. In the dead of night, strange canyon road, strange look in your eyes. You shut them as we fly. chiuso. Ci vediamo. Abbiamo finito con Fabio e riprendiamo con Fabio questo il 7 febbraio con una serata sugli Smiths. Grazie a tutti. Che siamo speravo qualcuno un di understanding perché secondo me è un album clamoroso, quell'album di sono 15 pezzi sono un po' più bello dell'altro. Che anno è? 2006 però sono un po' più bello però Grazie a tutti.